Episodio 3. 11. Ascolta l'intervista. Stefano Lugli, caporedattore del quotidiano Metro. La prima domanda che volevo farle è un po' banale. Come si diventa giornalisti? O forse, mettendola più sul piano personale, come lei è diventato giornalista? Beh, non è una domanda banale, perché si diventa giornalisti con tanta voglia di farlo. L'Italia è uno dei paesi al mondo dove l'accesso alla professione è ancora delegato all'editore, che può aprire o non aprire il praticantato per chi aspira a diventare giornalista professionista. Il che significa che il percorso, diciamo, previsto dalla legge è che chi proprio vuole fare questo mestiere trovi un editore disposto a dargli fiducia, a farlo lavorare e quindi ad assumerlo a tutti gli effetti in redazione per 18 mesi almeno. Dopo questi 18 mesi si passa un esame di Stato, si diventa professionisti e a quel punto si è diventati dei giornalisti a tutti gli effetti. E ovviamente questo lascia grande discrezionalità all'editore, che può scegliere o no chi ha accesso alla professione, e fa sì che possano scegliere di diventare giornalista chi ne ha molta voglia, ha i mezzi per poter per poter tentare questa avventura, può bussare alle porte giuste. È un sistema molto discrezionale. Il nostro ordine, per cercare di mettere, diciamo così, di un po' di trasparenza in questo settore, ha aperto delle scuole al termine delle quali si può dare l'esame professionale e si diventa poi dei disoccupati a tutti gli effetti, perché non avendo avuto l'editore che ha dato questa fiducia, si deve ricominciare a bussare alle porte. Quindi ci sono, è un po' complesso. Questo è per quello che riguarda l'ufficialità. Nella storia di ognuno di noi c'è appunto la voglia di aver fatto di riuscire a fare questo mestiere, che è comunque un mestiere che ancora è appassionante. Anni, per tutti, anni di tentativi, di articoli scritti, non pagati o sottopagati, di promesse fatte e non mantenute, poi in genere c'è un colpo di fortuna. Si sta al posto giusto nel momento in cui si ammala una persona, che viene fatto il contratto, in genere è una sostituzione, poi se si crea uno spazio in redazione perché c'è un po' di movimento, la sostituzione diventa più lunga e poi alla fine si accede a questo praticantato. C'è insomma una gavetta da fare. C'è una gavetta, indiscutibilmente, ed è anche una gavetta utile, perché così si mette un po' al riparo da quelle che sono le insidie classiche di questo mestiere.